Siamo coscienti che sarà difficile tanto leggere quanto ascoltare questo trattato di economia, perché Rose Wilder, figlia di Laura Ingalls e coautrice della saga La casa nella prateria, fu un'americana convinta della bontà del modello americano, secondo cui chi vale crea da sé il suo successo, con la sua volontà e il suo lavoro. Oggi sappiamo che così non è e che la ricchezza americana è stata assemblata con le guerre, i furti, lo sfruttamento dei nativi e dei coloni inviati a lavorare terre che poi venivano loro confiscate per inadempienza dalle grosse compagnie fondiarie, come ha spiegato brillantemente Rosa Luxemburg nel suo L'accumulazione del capitale. Ma nell'ascoltare questo testo, pur sempre coraggioso, dobbiamo ricordare che è proprio questo modello quello che ha permesso a Rose e a sua madre Laura di incarnare la storia archetipica del successo americano. Da povere straccione scalze, trasformarsi in due ricche e famose scrittrici, autrici di una delle saghe più conosciute in tutto il mondo. E del resto, col senno di poi, ossia con la consapevolezza di come i media manipolano l'opinione pubblica, non possiamo non pensare che a La casa nella prateria sia stata appositamente accordata visibilità e fama dai media, proprio perché sosteneva un certo modello americano, quello del self-made man. Non di meno, Rose va ascoltata, in omaggio al coraggio che dimostrò nell'opporsi al New Deal rooseveltiano, ovvero alla manovra statale di porre ogni azione, decisione e risultato del popolo sotto il controllo del governo, con la scusa della crisi probabilmente creata ad hoc. Né più né meno di ciò che stava succedendo contestualmente dall'altra parte del globo, coi regimi totalitari di sinistra e di destra. Rose sostenne, viceversa, che la ricchezza e lo sviluppo del popolo possono esprimersi solamente nella più completa libertà decisionale e operativa, da cui il nome libertarismo, attingendo alla creatività, all'intuizione, alla volontà e alla resilienza che invece il New Deal voleva soffocare, centralizzando le decisioni e controllando ogni movimento popolare. Rose Wilder Lane fu una intellettuale, giornalista, corrispondente di guerra e editrice che da ragazzina derisa dai compagni di scuola, perché andava a scuola senza scarpe, divenne una delle scrittrici più pagate negli Stati Uniti. Questo suo saggio del 1943, definito uno dei libri più influenti del XX secolo, ebbe un enorme impatto sul pensiero libertario americano. Attraverso la storia dal mondo antico alla metà del XX secolo, Rose ci propone la sua risposta alla domanda cosa ha trasformato il mondo negli ultimi decenni da luogo oscuro e miserabile dove tutti avevano fame a uno in cui gli esseri umani prosperano e creano. Per migliaia di anni, sostiene Rose, gli esseri umani hanno impiegato le proprie energie in tentativi infruttuosi di procurarsi un misero rifugio e scarso cibo, mentre su una piccola porzione del globo alcuni esseri umani usavano le loro energie in modo così efficace che in sole 3 generazioni hanno creato un mondo completamente nuovo, ovvero, secondo lei, il modello americano. Noi onoriamo le donne intrepide e coraggiose che hanno fatto sentire la loro voce e cerchiamo di ascoltarle senza però dimenticare la nostra via, la via del centro, quella moderata, pacifica, equanime. Nel presentarvi qualche mese fa l'intellettuale e politica russa Aleksandra Kollontai, abbiamo descritto una donna convinta della bontà del sistema sovietico, salvo poi essere lei stessa nei suoi ultimi anni a rendersi conto che il controllo non funzionava. Esattamente come Rose. Inoltre, noi abbiamo un tassello in più di Rose, le cui cognizioni storiche andavano indietro quanto la narrazione ufficiale patriarcale consentiva, ovvero di soli 6.000 anni. Grazie a donne straordinarie quali Maria Gimbutas, Momolina Marconi, Jeanine Davis Kimball, Riane Heisler o Heide Goettner-Abendroth, noi, invece, sappiamo che prima ancora della storia patriarcale di fame e povertà conosciuta da Rose ci furono centinaia di migliaia di anni di abbondanza e pace grazie alla civiltà della Dea. Dunque, con questa chiave di lettura, ricordando che Rose fu una fervente americana che idealizzò la nascita degli Stati Uniti, ci apprestiamo a leggere e ascoltare questa opera economica e sociogenetica. Informazioni su Rose Wilder sono state già fornite nella presentazione del suo romanzo Che l'uragano ruggisca, da noi proposto in versione integrale. Troverete il link in descrizione. La Scuola delle Donne è lieta di offrirvi l'ascolto di La scoperta della libertà, la lotta dell'essere umano contro l'autorità di Rose Wilder, stampato e caricato su internet dalla Freedom School Library, The John Day Company, New York. Tradotta per noi da Francesca Grandi. Da Devana, buon ascolto.